Radio 24 Reportage. Milano, la congestione della discordia, di Cristina Carpinelli. La domanda di fondo che tutti quanti vi ponete è: il provvedimento è rivedibile o meno, per capirci? Il provvedimento è una sperimentazione, che non è una parola che noi utilizziamo per coprire, dell'altro. Cioè, noi stiamo tentando di fare, come approvato dal referendum, la prima congestion charge italiana. Essendo una sperimentazione, le sperimentazioni possono e devono anzi essere meglio devono essere fatte migliorandole, ascoltando le difficoltà, migliorandole. Scusa, io contesto il metodo dell'impostazione dell'assemblea. Vabbè. Tu dovresti ascoltare i cittadini, non venire a È iniziata così l'altra sera l'assemblea dei residenti della zona 1 a Milano, presenti gli abitanti che saranno coinvolti direttamente dalla congestion charge e l'assessore al traffico Pierfrancesco Maran. Si lamentano i residenti dell'area C, che dicono testualmente di non voler pagare una tassa per tornare a casa. Tecnicamente i residenti hanno diritto a 40 ingressi gratuiti e agevolazioni sulle tariffe. È vero che se si utilizza solo ed esclusivamente l'auto per andare al lavoro, il problema resta parzialmente irrisolto. È vero anche che in altri paesi dove la congestion charge ha avuto la stessa infuocata accoglienza, alla fine il traffico si è drasticamente ridotto, a Stoccolma anche dell'80%. A Palazzo Marino contano di ridurre per i primi due mesi il traffico in ingresso del 20-30%. Questa prima fase sarà sperimentale e durerà due mesi, poi ci sarà un secondo test più lungo di sei mesi. Si calcola un introito di 30 milioni di euro da riconvertire in servizi pubblici. Si calcola anche un incremento di moto e motorini, perché potranno entrare liberamente nel centro di Milano. Le due ruote infatti non pagheranno, a eccezione per la categoria Euro Zero, che non potrà più entrare nella cerchia dei bastioni. In questo momento entrano in centro ogni giorno circa 25.000 moto. La media si alza d'estate, quando il numero di moto supera quota 40.000. Ma tecnicamente come funziona l'area C? L'area C è una zona a traffico limitato, nata per contenere l'ingresso in aree sensibili della città. Si tratta di un'area che riguarda la cerchia dei bastioni. Per accedervi bisognerà pagare 5 euro in ingresso, il ticket a validità giornaliera. Non potranno entrarvi diesel fino all'euro 3 compreso. Si tratta di circa 2.500 auto al giorno e rappresenta il 3,9% delle auto che entrano nell'area da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19.30. Fino al 31 dicembre 2012 però gli euro diesel 3 residenti dell'area C saranno derogati, ma pagheranno comunque il ticket in ingresso. I residenti avranno 40 accessi gratuiti. Il numero è stato calcolato in base a uno studio AMAT tramite telecamere dell'Ecopass e si è visto che il 50% dei veicoli dei residenti è passato dai varchi negli orari di attivazione meno di 40 giorni in un anno. 40 accessi dovrebbero, secondo la giunta Pisapia, garantire dunque gratuità al 50% dei residenti. Dal 41esimo ingresso i residenti dell'area C avranno una tariffa agevolata di 2 euro. Per chi lavora nel settore del trasporto poi c'è una tariffa agevolata. I veicoli di servizio possono dunque pagare 3 euro oppure 5 euro comprensivi di 2 ore di sosta gratuita sulle strisce blu. Non bisogna aspettare la pioggia, da qualche parte bisogna partire. Ci risponde così Paola Bocci, consigliere comunale per il PD a Milano, quando le chiediamo se veramente a Milano c'era bisogno della congestion charge. Noi ci siamo già resi conto, non solo dalle criticità forti che abbiamo avuto a dicembre, quando il PM10 è andato sopra i limiti per moltissimi giorni, che in questa città di smog ci si ammala, di smog anche si muore, soprattutto le fasce che riguardano i bambini sono le più soggette agli effetti di un inquinamento, per cui c'è bisogno di individuare dei provvedimenti che siano strutturali e non solo emergenziali di lotta all'inquinamento. C'è stato un referendum che ha dato un risultato molto importante, che chiedeva di potenziare il trasporto pubblico e la mobilità pulita e di estendere a tutti gli autoveicoli attraverso un allargamento progressivo di un sistema di accesso a pagamento, una tassa che consentisse in qualche modo di scoraggiare l'utilizzo dell'auto, e con l'obiettivo di dimezzare il traffico e le emissioni inquinanti. Adesso quello che io voglio dire è che Area C è il primo passo di una serie di provvedimenti che dovrebbero essere inquadrati in una strategia più ampia, che potrebbero arrivare anche progressivamente con l'allargamento dell'area di intervento, magari con la differenziazione. Però il punto fondamentale è che molti studi, commissionati anche dagli enti locali con cui abbiamo a che vedere, cioè Regione e Comune, ad ARPA e a degli istituti di ricerca, hanno documentato che il traffico è una delle prime cause, anzi è la prima causa dell'inquinamento. E traffico vuol dire velocità, vuol dire congestione, vuol dire ingorgo. Allora, l'area in questo momento dove c'è maggiore concentrazione di traffico, maggiore concentrazione anche di popolazione, è l'area centrale, l'area da cui bisogna partire per ridurre l'inquinamento. Allora, abbassare il numero delle aree circolanti, delle auto circolanti, eliminare gli ingorghi, rendere il traffico più scorrevole può ridurre l'inquinamento ed avere come effetto, in un altro senso, la possibilità di riutilizzare questi introiti di un pedaggio per implementare la mobilità sostenibile e nello stesso tempo di rendere più scorrevole il traffico del trasporto pubblico. Ecco, questo è il primo obiettivo. Però io vorrei fare un altro discorso. Io credo che l'investimento è quello di tutelare la salute, è quello di tutelare la qualità della vita della nostra città. Per i detrattori, questa nuova tassa trasformerà una zona della città, l'area C appunto, in un'area per ricchi, una zona cioè dove potranno andare solo coloro che non avranno problemi per pagare 5 euro dovuti all'ingresso. È una teoria che sostengono in provincia e in regione, dove la coalizione di centrodestra è al governo. Marco Osnato è vice coordinatore PDL Milano. Beh, evidentemente noi siamo assolutamente contrari a questa, che consideriamo puramente una ennesima gabella volta non né a migliorare ovviamente l'ambiente e né a migliorare la qualità del traffico, diminuire la congestione del traffico. Noi riteniamo che sia evidentemente solo un modo per far cassa e mi pare che con noi lo condividano gran parte dei milanesi, tanto è vero che stiamo incominciando a raccogliere le firme per un referendum che abroghi questa tassa che riteniamo inutile. Ma perché voi pensate che la congestion charge, che però a Londra e a Stoccolma ha funzionato, a Milano non serva a niente? Perché la situazione di Londra e di Stoccolma è molto diversa da Milano dal punto di vista dei servizi, del trasporto pubblico, della conformazione della città. Voi criticate la congestion charge come PDL, ma qual è l'alternativa per una vivibilità migliore? L'EcoPass era, come dice il nome stesso, un tentativo, una sperimentazione di migliorare la qualità dell'aria. Per estendere un'area più vasta bisognava aspettare che l'area più vasta fosse servita da un maggior numero di mezzi pubblici. Per capire come potrebbe andare a finire questa storia, siamo andati a Stoccolma. Nella capitale svedese ci sono solo 750.000 abitanti, ma è anche vero che è una città che si sviluppa su 14 isole collegate da ponti. La tassa è stata introdotta dal Parlamento svedese nel 2006 dopo un referendum, al termine di un periodo di prova durato un anno. Come sta andando? Eva Soderberg è l'assessore che si occupa del traffico. We first implemented it as a trial. Per prima cosa, come primo effetto, abbiamo ovviamente visto una diminuzione del traffico interno alla città del 20%. Questo per quanto riguarda i primi 6 mesi di sperimentazione della congestion charge. Dopo il primo anno di sperimentazione abbiamo messo regole più severe e ci siamo accorti che il traffico in ingresso in città era ridotto, calato al 70-80%. La gente come l'ha presa? Come hanno reagito all'introduzione di questa tassa? So che avete istituito un pagamento per entrare in città dopo un referendum, però vorrei capire come ci si è avvicinati, con quale spirito a questa scelta? All'inizio erano davvero contrari.